Nuova edizione di Inchiostro, Earth Arena del Sole, siamo nel fantastico chiostro, siamo due appassionati di lettura e letteratura, è un grande piacere per me fare due chiacchiere con Simona Brighetti. E io in questo momento sono responsabile dell'ufficio di coordinamento del Patto per la Lettura di Bologna e oggi sono venuta qua delegata per parlare di specialmente del chiostro, nel senso che faccio ancora parte della rete, specialmente in biblioteca, che è una rete che raggruppa 18 biblioteche specializzate, specialistiche della città, di vari soggetti, perché sono universitarie, comunali o di fondazioni private. Io ero entrata in questa rete quando ero responsabile della Biblioteca Italiana delle Donne, poi ovviamente la rete, quando è stato istituito il Patto per la Lettura, ha aderito e quindi ho continuato a rimanere dentro, a essere attiva e a lavorare insieme a tutti gli altri bibliotecari, rappresentanti delle altre biblioteche. Quest'anno anche, ovviamente, anche loro ogni anno organizzavamo un festival o durante il periodo autunnale un trekking urbana sulle biblioteche, con l'idea proprio di farci conoscere, far conoscere anche queste realtà bibliotecarie, non solo quelle di pubblica lettura ma anche queste specialistiche che sono disponibili proprio per un pubblico anche generale, generalista. E l'occasione, appunto, lavoreremo per il festival che ci sarà in autunno, ma intanto, visto che Earth, da sempre anche Earth, è dentro a questa rete, e ci ha dato la possibilità di, appunto, organizzare questi 6 incontri. Saranno 6 martedì e abbiamo pensato di, proprio in uno spirito anche di promozione circolare, di lavorare di scegliere 6 libri di autori e autrici bolognesi che sono usciti durante il periodo pandemico e quindi non hanno goduto, diciamo, dei tradizionali sistemi di promozione. Sono stati selezionati dalle biblioteche, ogni incontro è stato adottato da 2 biblioteche massimo, e che appunto presenteranno all'inizio anche le biblioteche, e poi a ogni incontro è stata richiesta la presenza di una libreria indipendente del territorio, così in modo da promuovere un po' questa rete, che c'è sia la rete specialmente in biblioteca ma anche la rete del Patto della Lettura, che è fatta di tanti soggetti che a vario titolo lavorano per promuovere appunto la lettura. Non ci anticipi un libro? Ce ne sono qui nella mia borsa, ma perché ce li avevo in borsa. Allora, di Luca Starita, Canone ambiguo della letteratura queer italiana. Luca Starita poi ha studiato qua a Bologna, si è laureato qua a Bologna, quindi questo è anche molto interessante. C'è una rilettura, diciamo, di alcuni passaggi, soprattutto di Palazzeschi, perché lui è uno studioso di Palazzeschi, di come si può rileggere attraverso appunto lo sguardo queer. Oppure, altro mio grande amore, Jack dell'avventura, perché questo è un romanzo incompiuto di Silvio D'Arzo, autore di prematuramente scomparso, di cui appunto ci sono c'è un libro in particolare, e lui è veramente bravissimo, Vita a casa d'altri mi sembra che sia, non lo dico io ma lo dicono tutti, è uno dei racconti e romanzi più belli della letteratura italiana post dopoguerra. E questo ogni martedì? Ogni martedì, sì. Io ti ringrazio tantissimo per queste anticipazioni. Grazie. Buon festival. Grazie, ciao.